Attento Eugenio, io mi chiamo Fischio, chi è? Attento Eugenio, Eugenio, stai rientrando? Eugenio, Sassa richiama, Genio. Attento Eugenio, canale 10, Sassa richiama, dove sei? Cambio. Attento Eugenio, canale 10, Sassa richiama. Ci sei? Dove sei? Non ti sento, Attento Genio, Attento Eugenio, canale 10. Ci sei? Stai rientrando? Se mi stai ascoltando, mandami su WhatsApp la posizione. Attento Genio, non vedo niente, non mi è arrivato messaggio, Genio, non mi è arrivato messaggio, mi senti? E si fa vedere, attendendosi, ciao Antonio Giuseppe di Sorso. Diciamo che non, ancora non siamo del tutto messi bene, Antu, devo fare un ecocollo in settimana, perché questa infiammazione non vuole andare via, altro no, non mi hanno detto, dopo che faccio quello allora sappiamo esattamente, capito? No, c'è un Eugenio che sta rientrando da Barumini, però ancora non lo sento, sì da Barumini San Pietro, da Puglia e Cagliari, però io dalla piana di Macomer lo sento benissimo. E l'ho accompagnato l'altro giorno, quindi lo sai dove sono io, perciò quella zona per me non è un problema. Commenti? Perché anche in campagna tua arrivo, e se lo sta lontano tu la Sassari. No, quello che c'è in campagna no, visto quello che c'è in macchina, quello che c'è a casa lo so, perché anche in campagna ne hai un altro, lì c'è l'antenna lo stesso. Sì, lo conosco perfettamente. Sì, ma la campagna siamo già sentiti noi, capito? La campagna durante il giorno sì, ci siamo sentiti, arrivi qua a Sassari, non c'è problema. Nonostante sia una zona molto distante, ma è abbastanza alta, capito? Sì, è quella americana base, no? Che lavorava alle ferrovie, in ferrovia, quello di Alghero. Scusami che non mi metto mai io, però ho capito chi è. Ah, è Antonio, sì. Sì, e quello lì era suo, no? Sì, io me lo ricordo, la razza. No, lì sa cosa la usano quei così WHF marini, capito? Che non posti sul canale, mi pare, adesso non mi ricordo che canale c'è, nel 16, e tu ci fa vedere un altro canale, se c'è una chiamata sul 16 scatta automaticamente, capito? È un bel sistema quello. Sì, ma quelle radio americane sono così, sono così quelle radio, tu, capito? Che ne direi finita, era anche nuova quella, mi pare l'avevo vista io una volta. Sì, 23 canali MFM c'hai, boh. Ehi, c'ha lo stesso sistema di quelle nautiche, capito? No, già funziona. Tanto quella è transistor, tu non è come te. Chi sui fai tu, se lo tieni solato un anno non funziona più. Quello, io c'ho il baracchino, ce l'ho da 48 dentro l'armadio, me l'altro giorno l'ho tolto, l'ho acceso, sempre bello funzionante e pimpante, capito? Quindi i baracchini li vuoi di nidra tra l'armadio, ma lì che non si buoni di nidra, ti devi di nidra stessi. E l'umido dov'è che le può far male al baracchino, però se è custodito bene dentro l'armadio, ce l'ho fanato, eccetera, che non prende umidità, tu lo vuoi di nidra anni dentro l'armadio, l'accendi e è sempre funzionante. Guarda, io la 48 minimo, era un anno e mezzo dentro l'armadio senza accenderlo. L'altro giorno ne ero a vedere di uno che era tutto scacciavettato, e te c'è a vedere il mio, se le posizioni sono tutte uguali, e l'ho preso dentro l'armadio, l'ho aperto per vedere se era uguale a quell'altro, e poi l'ho richiuso, l'ho acceso e l'ho messo in ascolto, ma è perfetto, capito? No? È nuovo, ce l'ho in concessione, quindi ce l'ho sempre. Sì, vanno bene perché sono PLL quelli, capito? Sì, l'HB23 io ce l'avevo, l'ho regalato a Giulio. A Giulio Rolla lo piaceva, non ce l'aveva, lui ne ha altri baracchini, capito? L'ho regalato a lui, ma anche quello, un Caterpillar, nuovo, sempre bello funzionante, 23 canali, solo AM, e funzionano sempre bene, capito? ma quello lì cosa fa? Se lo metti lì a casa tua, entra lì su. Allora quindi vai l'altro, manco entra. Sì, è quello a doppia commutazione, già lo so qual è. Doppio smitter, è molto bello quello. Molto molto bello. E vabbè, ma se non lo tratti in campagna, va a Nido, o bene a casa, boh, o vai in campagna, vai, ne metti un altro più piccolo. No, ciao, per avere MB più 4 costa 40 euro, cosa ci difendi? Ce li ha Fusaro, se non ce la si ordina. 40 euro, 45 euro costa un microfono da tavolo, l'MB più 4, ce l'ho anche io, tu, si può abbinare a tutti i baracchini così come quello, io ce l'ho sul DAC, che è un barrasone, ma te sì, ho l'MB più 4 e l'MB più 5, capito? Quindi quei microfoni si possono abbinare a quello, esce anche molto bene. Hai anti-attacchi a 4, questo attacchi è facile, un microfono della Midland, della 48, un F24 da Desiro, c'è anche il Proxer che va molto bene, quello il DM1000, e vendere microfoni, a voglia, se attacco a 4 tanto è facile fare le connessioni, non c'è problema, sono 4 vidi, insomma. E vabbè, te lo faccio io, non sarà un problema, no? Fuga male, basta che ho un connettore, non è la fine del mondo. Magari queste radio americane hanno tutto lo stesso connettore, magari vanno a stessi connettori di Rudacchi, capito? Bisogna provarlo, però bisogna che venga lì, o andiamo in campagna, o un Manzano, o una domenica a Manzano, no? Gioco, boh. Una mattina che bisogna andare lì. Oppure ne rubare a casa, allora viene più facile. Vengo da te e lo vediamo. Vediamo se gli attacchi sono uguali a quello che ho io. Dice che va in macchina, che marca è quello che c'hai in macchina tu? E quello non va bene, l'hai provato? No, quello da Lafayette non va bene. Mi dovrebbe andare bene, o quello della Midland, quindi devi provare, o quello che hai in macchina. Oppure io ce l'ho un microfono della Midland, però bisogna attaccarle i fili, bisogna attaccarle il connettore, capito? Vabbè, ma non è un problema, c'ho 4 fili, Antu, c'ho 4 fili, non fa nulla. 4 fili e si fa il connettore suo originale. Però se tu mi dai già un indizio, se quello della macchina va bene lì, capito? Lo vorremmo guarda che c'è della macchina direttamente. Hai amplificato un Proxer di quelli in DM1000, capito? Che è amplificato e funziona bene, se no ci sono quelli della ZG, che mi pare che ci ha fusato lo stesso, sempre il microfono da palmo. C'è quello dell'Alan, c'è l'Alan 24, c'è l'Alan 22 mi sembra, sono tutti microfoni preamplificati per macchina, capito? E io si direi mandato in pari, io sono per più. E non mi mandate assieme, quando io ho comprato l'antenna, mi vai a me le dito due, abbiamo messo un negozio di Kiwi, e i Vauri vendono allora, i Vauri se lo muovono che hanno padrone. Quello se ha chiuso tutto e se n'è andato a lavorare con Grassi. Grassi, chi ci vende antenne, chi sa su Vanfarroni. Vedi. Però vabbè, ce li ha Fusaro quel microfono della ZG, tu, capito? Ce li ha Fusaro, questa lingua di Dio, mi pare una pesceria. Però funzionano bene, sono quelli della ZG. Mentre la GBC dovrebbe avere quelli dell'Ala. L'F10, l'F22, l'F24, sono microfoni amplificati che andano bene. Quello era forte, sì. Quello era forte. La Delta era fortissimo, quello da palmo, ce l'avevo anch'io, sì. Che sulla quello sguai della Dananzi, che era Sassi e Abbasciassi. Sì. Ma anche questi sono così, mio Antò, anche questi sono così. Con la levetta davanti, lo regoli, capito? Sono microfoni normali, piccolini, non è che sono grandi. Io ve l'agio normale, però, normale. Se tu mi dici che connessioni c'ha quella radio, io te lo faccio, non c'è problema. Ed è però un microfono normale della Midland che funzionano molto bene, te lo do, non me ne frega niente. Sì, perché sono radio vecchie, adattate, capito? Anche il DAC che ho io, che è americano, ma te c'è con il microfono normale, non esce bene. Però con l'MB più 4, l'MB più 5 va molto bene, anche col Turner vanno bene, perché sono a PLL, capito, sono quarzati, quindi andano una ganonada. Comunque quando vuoi me lo dici, magari anche quando rientro al lavoro, un attimino, scende dal travaglio, mi fermo guardiamo che microfono ci va, che connessioni ci vanno, capito? E poi te lo preparo. L'importante è che tu ne scendi la radio lassù, non puoi immaginare. E poi lì c'è molta umidità, capito? E lì fa freddo, tu sei un ben alto lì. Comunque tu quando andi, il trombone lo gofano e ne lo fai, capito? E lo metti in cantina, lo metti da qualche parte, e poi passo io e vediamo almeno le connessioni col tester, che connessioni c'ha. Mi interessa solo vedere quello a me. E poi magari ti preparo un microfono che c'ho io, qualcosa che troviamo, vai, giusto per farlo uscire meglio. Cosa? E cosa vuoi che ti dica? Se no, andrò qua, dopo non chi tu garage, chi sai tu, passiamo e facciamo un burrovino così. Oh, ma si ferma perché ogni tanto. E ha detto, io si ferma quindi ogni tanto. Ah, vabbè. No, ma anche Gabriele l'altra volta me l'ha detto che ti ha visto lì in garage, hai capito? Perché lui scende da su da Sennori e passa in Chivi, compreso, perché poi c'ha sede anche lui a Sorso, all'impianto, quindi taglia in Chivi. Io dice tu, e dice, ehi, c'è un altro Giuseppe in garage, e te che non ti servemo, no, lo sai che non posso bere in macchina. Ma infatti mi ha detto, tu passa e fai compagnia già per lui. E allora, a Goggio, ma pare di sette già visto. No, è ovvio, le sette come sta nella mia città. Dove vado un bizzo stasera, Faini mi ha fatto male l'altra volta, non ho dormito niente tanto. Non so come stare il sogno, ma tutti sa, però preferisco la pizza stasera. Ma infatti me l'ha detto, poi io la ordino sempre, metà normale e metà con cipolle, e quindi anche ho mangiato un po' di uno, un po' quell'altro. E sono rimasto tutta notte, acidità di stomaco, volto la volta, ma mi ho bisogno due, tre, quattro mangiamo, e poi abbiamo 11. Quindi ho detto no, stanotte niente, allora mia moglie ha detto allora prendiamo la pizza, vabbè, pizza, però niente fai niente. E infatti invece è quella dove c'avevo bruciato di stomaco con tu. Perché io la cipolla la mangio con tutto, con insalata, io ho certo insalatone, cipolla, pomodori, cetrioli, rucola, di tutto, di butto, capito? E non mi ha mai fatto niente, e l'altra lì mi ha fatto male. Male nel senso, c'avevo bruciato di stomaco, non stavo bene, capito? E quindi sicuramente è tutta la zionda. E allora niente, però no, allora prendiamo due pizze, intanto mia figlia non c'è, se ne sta uscendo, è uscita alle 4 oggi al lavoro, finalmente una domenica di riposo, esce il grubizzino, grazie sempre a travaglio, e scende l'unica lì a Londra a mezzanotte. Ha fatto, ha detto, figlia mia, esci sempre, io e mamma già siamo a casa, infatti se la rende la macchina, facendo il grubizzino a pigliarla. Quindi sto lasciando la macchina, e già da avevate in Chivo la macchina, non c'è andato a lungo, sto già leggeri e bevi, mangio le buoniche, già bugio, poi non sto a casa, tanto non ne voglio più riuscire, no. Sta diventando come me. No, allora, no, ma poi, non so, mi piace più uscire, ma vedi, io ce l'ho mangiato per dire, me ne va a portare a mio fratello, me ne va a dire a mia sorella, adesso non inizia il tempo bello, va bene, ma a me uscire la sera, no, non mi piace. Ciao Marco, buonasera, avanti. Ehi, buonasera a tutti, ti ho fatto la battuta. Buonasera a tutti, dai, io sto per pranzare e vi ascolto, dai, per adesso vi ascolto, chi tutto c'è? Nessuno c'è, io Antonio Giuseppe da Sorso, e te Falcone, chi se ne è pigiato ahorita va, te ci ho già detto, adesso devo pranzare, non devi tirano, alle di sera devi ancora pranzare. Eia, ben sentito, Marco da Sassari, no, oggi vabbè mi sono svegliato a una certa ora, non presto. Però siccome non siamo andati da nessuna parte, sono rimasto in pigiama e tuttora sono in pigiama, ho messo solo la giacca per venire qua alla radio, ma noi pranziamo sempre a quest'ora, non è novità, noi abbiamo degli orari molto particolari e per noi sono la normalità, per Claudio no, per gli altri no, ma per noi per adesso sì. Ti prendi Claudio? Infatti per te è normale, per me no. Vabbè, pranzo allora, già sono qua io, vai, non ti preoccupare, sono qua, sto aspettando che rientri Eugenio, un messaggio su WhatsApp, è già partito, però ancora è troppo lontano, non lo sento. Vabbè. Appena si avvicina lo agganciamo subito. Avanti Falcone. Sì, Falcone, non c'è problema. E anche a me, l'unico fastidio mi dà è dalle 10 alle 6, perché c'è Navi alle 7 e mezza, capito? E entrate a lavorare tutto attuntunato, tutto fuso. Invece dalle 6 alle 2 non mi dava fastidio neanche dalle 2 alle 10, perché uscivo e cenavo direttamente a casa. Ma dalle 10 alle 6 è fastidioso, a chi se ne è troppo ghizzo e poi tremare tutto in groppa, compreso. Era meglio zinare ai chili in turno, come facevamo un tempo. Va bene, Falcone, un abbraccio grande, saluta moglie, figli, saluto grande a Daniela, sono una vita che non la vedo. Poi con calma dividimo e vediamo questa cosa del baracchino, capito? Ciao Antonio José, alle prossime. La Tappignana, tu cena, io sono qua, ok? Quando vuoi chiama, io sono qua in agguato. Eia, c'è un freddo qua, mannaggia. Questa stanza al baracchino c'è un freddo, poi sai, essendo in pigiama. Anche se ho messo la giacca a me per stare qua, le calze, ma c'è freddo. Vediamo, se non entra nessuno non vale la pena di entrare, dai. Vediamo, dai. Ma te devi pitturare, non devo dire se non entra nessuno, vale la pena entrare. Tu, entra tu. E a tutti i bini gli altri. E tu che sta mania, Gindu? Io entro, come vedi, entrano sempre qua a salutare, a fare questo, eccetera. C'è la Valeria l'ascolto, c'è Gianfranco, adesso vediamo se riusciamo a agganciare Eugenio, Gianni, se non sta lavorando la moglie sicuramente non c'è, ma se la moglie lavora Gianni è a casa, quindi entra anche lui, d'altronde solo sia un quarto, non è che, capito? Io vai a cenare e muovi da entrare per piacere, intanto io vado a dare a mangiare il bambino. Sì, sta per fare. Ma Eugenio dov'era? Di zona dov'era? A Barumini, ma io lo aggancio da Macomer tranquillamente. Barumini, e dopo mi guardo dove c'è la carta, dai. È lontano, 200 km Barumini, ragazzi, non ti preoccupare. La provincia di Cagliari, Barumini, San Pietro. Sì, allora mi pare assurdo, sì, quando si avvicinerà bene o male lo ascolterai. Ok. Va bene, infatti ho detto che sono qua su 10 in ascolto. Va bene, Marco, dai, devo mangiare a Filippo e sono qua comunque, dai. Facciamo due chiacchiere, già entrano gli amici KK. A dopo. Eia, a dopo, dai. Cosa? Tu sì, Marco, cosa hai detto? Non capito. Ma poi aspetta, non mangiare il cane, no? Sì, fai pure. Non eri tu, no? Chi è avanti? Eccomi. C'era un fischio basso, ma non credo sia lui. Ma io non mi chiamo Fischio, capito? Mi chiamo Claudio Sparghiero, quindi a me dei fischi poco mi interessa. Come il cane ti chiamano? Se bruciava, sì, a pescio Gacheru. Io non rispondo ai fischi, rispondo a chi si presenta, a chi chiama per nome. Molto bene, molto bene. Sentita lei. Sicuramente vuole mangiare, caro mio, ti vede mangiando. Ehi, no, ma questa ha sempre fame, capite? Infatti è più grassoccia. No, ma non sto mangiando, ancora no, non c'è, sta facendo, capito? Ancora non sto mangiando. Ne ho messo il microfono vicino lì. Già si è sentita, sì. Quella bel miegolio, ovviamente una femminuccia, no? Sì, si è sentita. No, su Facebook con Giulio stavamo commentando la partita della Juve. Primo pareggio della stagione, fuori casa, Udine, vabbè, 1-1. Non abbiamo perso niente, abbiamo sempre guadagnato un punto, va bene. Lo stavamo commentando, non può entrare perché c'è gente, ha detto se si libera entra dopo. Va bene, va bene. Aspetta, no, radiamatori sono, aspetta che li leggo. Ecco. E allora 55? No, 6625 mi pare. mi pare. Sì, 145 6625. Ah sì, R2 Alfa quello. Quello che ha Fiume Santo. Ma c'è un fischio sul ponte, lo senti? È un po' contuso io sul ponte. In barriera di leva e piglienni di il vento, glielo ho anche detto Antonio l'altro giorno che mi ha mandato l'invito per che c'è una manifestazione, c'è una manifestazione, se non me lo ricordo dove, Itti, Antonio Itti, eccolo qua, eccola qua, dove c'è una edizione di Perla, di Ittiri, attivazione del museo della radio, ruota manifestazione Ittiri 31-3, dal 31-3 al 2-4, capito? Ci andiamo, questa volta ti porto, io ti faccio conoscere veramente il mondo della radio. C'è un collezionista, Mario Fadda, che io penso che sia il più grosso collezionista in Sardegna sicuramente, di microfoni. Ah, ecco, poi cosa c'è? Hai detto mostra della radio. Sì, le radio all'epoca, infatti io devo portare il DAC, la linea Lipcraft, lo standard, il padre che ho, VHF, Quarzato. Dentro la radio, Quarzato, a Quarzi, eccetera, e dico, a Quarzi, datato 1972, era di Giancarlo Baffigo con Anima di Porto Torres, tu non l'hai conosciuto, ma qualche radioamatore se lo ricorda, capito? Ciao, e perciò ci vado anch'io perché mi ha invitato, anche di altre volte mi ha invitato, ci vado. Questo cognome, e che lavoro faceva questo? Giancarlo Baffigo aveva un negozio di armi, pesca e sport in corso Vittorio Emanuele. No, non è quello che penso io. Io ho avuto un insegnante di religione, si chiamava Baffigo, ma non ricordo il nome nemmeno. Stiamo parlando dell'anno di grazia 1986. Adesso mi ricordo che hanno morto Giancarlo, perché in questa radio a me me l'hanno portata da Porto Torres, proprio a me personalmente. Vabbè, tutta revisionata, riverniciata nel suo colore, molto ma molto simile all'originale, però non è l'originale perché era completamente coperchi, tutti arrugginiti perché era buttata in una cantina, però perfettamente funzionante, guazzata. Vedete, uno standard, allora sigla non ce n'è, delle cose ci scrivo solo standard 2 MT metri base station. Ma perfetta vuol dire non ha un graffio né davanti né dietro, capito? Poi quarzata, sono i canali marini e qualche canale dove si poteva parlare. Allora io in quell'epoca avevo 12 anni, quindi non ero neanche nel mondo della radio ancora. Sì, forse sì, sono entrato a 14 anni, quasi 15, quindi però questa è bellissima anche esteticamente, molto bella. E quindi quella lì, la linea di Kraft che l'avevo già portata una volta, e il solito DAC che lì ci sta bene, e basta. Adesso avevo tutto dato a Roberto, infatti volevo coinvolgere Roberto Quadrato, che c'ha tutte quelle che gli avevo dato io. Se ci mettiamo d'accordo, se è libero, andiamo. Sì, potete fare così, infatti. Eia. Aspetta che faccio una prova. Metro digitale tutto a contusoio, no? Non è reale, dai. 40, sì, un picco di modulazione 40. Questo vicino, ma tu che mi hai detto che avevi un rosmetro, metro watt, metro VHF, UHF, non grande, piccolo, tu me l'hai detto, chi me l'ha detto? VEU. Io c'ho un rosmetrino piccolo della Oxin, o chi per lui, che fa VEU. magari i watt forse sono un po' tirchi, i watt sono un po' tirchi in UHF, forse è più abbondanti in VHF, però bene o male le stazionarie le segna quando ci sono. No, no, era per fare un po' con quello che ho io, per vedere se era preciso, perché il mio mi sembra che stia dando i numeri, capito? Non che sia molto grande, perché c'ho spazio giusto giusto per metterlo sul dove c'è la parte veicolare. Quanto è grande? Quanto è largo? Quanto è un MC60? Quanto è più grande? Oh, è piccolino, sarà 8 cm per 8 cm per profondità 10 massimo. E quello non è, sai cos'è? Se tu vuoi fare un confronto col tuo, dovresti paragonarlo a uno strumento professionale tipo Daiwa e altre marche, perché già non so se è tarato il mio. Una prova si può comunque fare, non c'è problema. No, io uso strumenti V e non uso, non mi vai. Ho due gemellini che sono con l'antenna diretta a zero di stazionaria, ma per niente, poi ce l'hanno lo strumento dei gemellini, capito? Non l'hai presa? Sì. C'ho quelli HF, io c'ho quello della Daiwa 700, la Incrociati, che mi serve come raccordo dell'amplificatore lineare da fino a 2 kW, quello lì, capito? Perché lo strumento suo non è molto affidabile dell'amplificatore, quindi uso quello esterno. Basta, poi io altre due, no? Allora, HF. T230 sempre collegato sia sul 430 che sul 440, che praticamente lo uso solo con l'attore, non ci bisogna mettere fare, no? Neanche qua uso come rosmacrofattimento, capito? Ed è quello della Kenwood, della T230, quindi cioè, gli strumenti sono abbastanza professionali. È giusto per fare una prova. Con la antenna, non te l'ho detto, quella della 510 è la mia stazionale, non ho mai provato le direttive UHF e UHF siano stazionali. Sì, no, io l'ho usato solo quando ho provato antenne veicolari per il PMR, ho detto tra noi, no. E anche l'antenna qui, che però non è a proprio, però per la macchina, per esempio, due antenne quasi uguali, di marche diverse quasi uguali, una ha più stazionari e l'altra non ne ha, e quindi uso quella che non ne ha in PMR. Quando lo usavo, adesso non ne uso nemmeno più, capito? E poi lo levo, giustamente, una volta misurato si può levare, è sempre meglio averlo comunque, dai. Sì, beh, un strumento sempre, ma ce l'ho io uno piccolino UHF, capito? È giusto così per fare una temperatura, per vedere se si tutto a posto. Poi la macchina, sono quelli piccolini, molto efficaci, non fa neanche a tenerlo, sono quelli, c'è il connettore da una parte e dall'altra per verificare se l'impianto della macchina è a posto. Molti lo lasciano attaccato, chi ha l'impianto V e U che le serve, insomma, come non l'avevo usato, per non l'avevo messo nella cosa, nella Peugeot, e poi l'avevo, c'era nel cassetto, però è troppo piccolino, non è affidabile, capito? E quello volevo fare la prof, ma non ti preoccupare, per come ci vediamo, lo verifichiamo assieme. Va bene. Vediamo intanto se c'è Gianfranco l'ascolto. Gianfra, oggi è domenica, sarà in giro per le spiagge. Detto lui, come sempre, no, ma sai cos'è, mi ha messo la pulce all'orecchio, o chi era ieri, che anche se ci sono i 15 giorni di copertura, per le forze dell'ordine è come non essere assicurati. Quindi abbiamo preferito anche non uscire, domani andiamo di filato a pagarla e così non dobbiamo temere nulla, capito? Te l'ho detto io perché me l'ha detto l'assicurazione, non è che me la sono inventato io. Poi, giustamente, come ti ho detto, ribadisco, per l'assicurazione non c'è nessun problema, loro non hanno assolutamente, capito? L'unica cosa è stare attenti perché il 15° giorno scade a mezzanotte, non è che scade l'indomani, capito? Quindi a mezzanotte 5 del 15° giorno, se ti trova la polizia stradale, non solo di fermarti la macchina, di sequestrarti la macchina, altrimenti anche 1.000 euro di multa. Quindi bisogna stare dentro i 15 giorni e pagarla entro i 15 giorni, capito? Perché loro possono intervenire. Però per la polizia stradale soprattutto e i carabinieri, non tanto i vigili urbani, ma soprattutto polizia locale, queste cose non le tiene in considerazione, ma le lascia aperte. Ma la polizia stradale e i carabinieri è un periodo che si stanno attaccando a queste cose, capito? Ecco, mi ho portato l'acqua. Sì, poi la stradale è particolarmente fiscale, proprio fiscale. Non sente né se né se né ma, è fiscale. Se così ti multano. Ci si multano anche tra colleghi alla stradale, m'ha detto Ivan. Io tra colleghi è una parola grossa. Non sono molto fiscali, hai detto bene, perché io un giorno con la macchina di servizio nel rettilineo di scorrimento veloce per Santa Teresa di Gallura mi hanno fermato i carabinieri. E senza neanche accorgere, ma vedevo questa spia accesa perché te la segna delle lampadine, fiorino, fiorino nuovo. Domani la metto, me la metto perché c'ho il kit dentro la macchina, quindi era solo un momento fermarmi a piazza e metterla, non cambiarla, sostituirla. Adesso si ricordi tutto a posto, niente. Si ricordi sostituire la lampadina della luce dietro, sì, lo devo fare, mi perdoni, appena 2 secondi mi fermo a piazza e te lo faccio. Arrivederci, grazie, arrivederci. L'indomani, quando stavo facendo Sassari per andare al lavoro, nel rettilineo Marrizza, la polizia stradale di Tempio, e mi hanno fatto 25 euro per una lampadina che io avevo in macchina. Non c'è stato Cristo, ho detto guardi che ce l'ho in macchina, ma lei la può tenere in macchina, mi ha risposto, però non è al suo posto, lei c'ha una lampadina della luce posteriore sinistra fulminata ed è pericoloso per chi viaggia di notte. Come di notte non viaggio? Insomma, non c'è stato Cristo, mi hanno fatto 25 euro e mi raggio bagata perché l'azienda non risponde di queste cose. Noi in dotazione abbiamo tutto, o vai dal meccanico, dall'elettrauto e te la fai cambiare, quelli convenzionati, oppure te la cambi tu, 25 euro, per dirti che la strada è molto più fiscale. Sì, sono molto fiscali. Qui dei carabinieri, ci sono dei carabinieri, se dimentichi la cintura dicono beh mette la cintura prima di andare. A me c'era fulminata la lampadina della luce targa, no? Che quella è ancora più, si attaccano anche a quella. Era andato da Auchan, l'avevo cambiata subito, perché so com'è l'antifona, no? Cambiata subito. Basta levare il pezzettino in plastica trasparente, si mette, non so se a baionetta o com'era, non me la ricordo più, cambiata subito perché so che si attaccano anche a queste cose. Bene, bene. Le cinture invece io le mettevo anche quando non era obbligatorio, perché piuttosto che uscirci dal vetro preferivo avere la cintura. Ho capito. No, sono troppo grandi questi, no? Mi hanno mandato un messaggio, due foto, tre foto, sono troppo grandi, non me ne voglio nulla, non me ne faccio niente, bellissimi, sì, conosco questi due strumenti, molto belli, però io non me ne faccio niente, c'ho quello della Kenwood grande, questo VHF, bello illuminato, e poi c'ho quello della Daiwa, lo stesso HF 700 che mi serve come percorso che è abbastanza grande, sempre da incrociati. Era giusto per fare una prova. Va bene. E sono belli questi però. Non è stata una foto. Sì, riconosco questi. Sì, sono molto belli questi. Hello. uia, non mi scende, mi uia, uia, non mi scende. Il drive è bello, ad anche incrociati, c'è sia HF e sia VU. È uno di quelli c'ho io, il modello 700, capito? Uno di quelli c'ho io, allora gli incrociati, è un bel grande, è un bel ragione, infatti lo tengo sopra l'alimentatore dietro, che mi consente solo, ripeto, solo per fare l'accordo all'amplificatore. E basta, non mi serve all'altro, ho capito. Come ha fatto l'uscita l'amplificatore, l'accordo giusto, perché so, è uno strumento più preciso, quello dell'amplificatore è sempre un per fare un accordo, diciamo, in linea di massima, però per essere preciso mi avevano consigliato di mettere un wattmetro esterno, così ho fatto. Cioè, chi ha più esperienza già ha verificato queste cose, è meglio ascoltare, perché tu rischi di lavorare con un accordo non fatto bene, bruci la valvola, cioè, fai danno. Meglio sempre che l'amplificatore sia bene sia in preaccordo che in accordo, sulla frequenza stabilita, in modo che non ti crei problemi. Bene, stai mangiando, quindi ti lascio mangiare. Eia, bello piccante pure. Allora, quello che piace a me è il Daiwa 801. Mi pare si chiami il luminescente, mamma mia. Il Daiwa CN801 e ce ne sono due modelli. C'è quello che tiene 2 kW e quello che ne tiene 3. Ma 3 proprio è per radioattori, capito? Sì, sono molto belli. Sono due gemellini. C'è HF, come le foto che mi hanno mandato, per non dire chi me l'ha mandato, ciao carissimo, grazie delle foto, tanto so che sia l'ascolto. E c'è HF e VU, sono uguali, precisi identici, fanno stazione, sono molto belli, illuminati, erano incrociati, però io non c'ho posto per gli strumenti, capite? Ripeto, c'ho questi che è giusto così per tenere un po' la situazione sotto controllo e basta, ma no, non mi serve, è una prova volevo fare, le radio che ho io ce l'hanno il osmetto incorporato, però non ne uso mai, si antena è proprio a zero, 0, 0, 0, non mi ha mai creato problemi, esco 110, con tutto nella caduta, avevo fatto la punta nuova, è stato un tubo di quelli in plastica bianco, di quelli canaletta per l'impianto elettrico, e poi avevo messo il tappo sopra, così c'è una vita, non si fa, c'è di lavaro e la metto nuova. Va bene, mangia, vai, già sono qua. Pace e bene a tutti. Gianfranco, lo vedi già c'è. Pensavo che eri in spiaggia facendo prove. No, ero fuori proprio facendo prove invece. È indovinato, no, in spiaggia ovviamente, no. Ero lungo le strade di una città di Milano, per in modo da vedere se c'è una valle d'ombra e fare dei test. Andati oltremodo bene, poi devi stare anche attento al tempo, perché se c'è preparazione non va bene, cioè devi fare quando c'è preparazione e quando non c'è, perché il collegamento deve essere certo, è un po' complicato, comunque no, abbastanza soddisfatto. Infatti io ho detto a Marco, ho detto sai Gianfranco l'ascolto, anzi ho detto oggi domenica, Gianfranco di solito domenica riesce a fare prove tecniche di trasmissione in spiaggia invece di in zona campagnola, va bene lo stesso, avanti Marco, senza il boccone in bocca però. Ciao Gianfra, ben entrato, dai, sì, io mi sto ingocciando, dai, quindi riprendete voi per adesso. Colazione, ma... Adesso lui sta pranzando, capite? Sta però pranzando a quest'ora, a me mi dà un sollievo. Avanti Massimiliano, buonasera. Buonasera. Commentistela. Sì, appoggiata al muro, appoggiata al cavallo. Oh, quindi la moto, non la macchina. Tutte e due. Ciao Claudio, mi hai sentito? Gianfranco, Marco. Vai Gianfranco, Marco lascialo stare che sta mangiando. Sì, buonasera Massimiliano. Non so se mi senti, perché io sono sempre il cuore di PlayStation. però se mi senti buonasera, comunque una cosa. Certo, perché non ti dovevo sentire, Santiago Novo qua, la Puglia ti sento. Sì, sono perfetto. Non mi piace usare potenza, ma da sempre però. Una cosa un po'. Vabbè, non è strettamente necessario. Allora Claudio, come si mette? Ecco, ti vuoi rispondere, ma Massimiliano, come si mette? Cavalletto. Come si mette? Così. Ci prosegue con la mia terapia, adesso domani c'è un'altra visita. Noi ieri non sono stato molto bene. Bruciare la gola allucinante. Non so cosa dirti. Vediamo se ne tolgo un piede, se no piglio, parto fuori, se abbiglio le luci. Voglio essere sicuro che è tutto a posto, perché qua mi sembra che stiamo cercando a Galicio e mi sto. Come si diceva un tempo, capito? Chi dice una cosa, chi dice l'altra, tranquillo, però io il problema ce l'ho, persiste in continuazione. Ho sempre la voce rauca, sempre non sono più come prima, e quindi non lo so, ma vediamo. Cosa mi dicono ormai, dopodiché, cosa sto dicendo, prendo appuntamento su a Pavia, al parco, e se la prendono nel questo loro, e chi l'ha inventato anche. E poi Massimiliano, non si è uscito. Stamattina così, ho accompagnato il mio figlio a catechismo. Da Fettino Ottavo e poi me ne sono risalito. No, io adesso sto accompagnando un altro mezz'oretto, poi accompagno mia figlia a un compleanno da amici, va. Però fanno lì a fianco alla piccola. Ah, ho capito. Quindi non l'avete preso il caffè a San Giovanni a Ottavo oggi? Da solo, sono sceso giù, c'era Gigi, ma è arrivato a mezz'oretta, poi è andato via. Ah, e io, scegliere, stare così di cosa, sali e scendi, e dice che sei a casa, insomma, che venga qualche controllo, quindi ho preferito neanche chiamarti. Ho portato il cane alle 9:30, alle 10:10 ero già a casa, sono rimasto lì a mezzodì, poi sono uscito a mezzogiorno alle 10, sono andato dello spino a prendere due fesserie, preso un caffè con mio genero lì, piazza le segne e poi a pranzo, no, questa volta ci organizziamo diversamente. Avanti Gianfra. Sì, niente, fa bene comunque, purtroppo qua è così, quando lo sanno dove scendere vanno tentativi, e nel frattempo poi no, uno ha problemi altri, cioè sono quasi a tutto, in tutti i casi, in tutti i settori, quindi fa benissimo, se la sono bravi, prendi l'aereo, fai vedere e vai dagli esperti. Perché molti qua c'è qualcuno bravo, ma molti sono un pochettino con le orecchie lunghe, mi già mai capito. Scusa Gianfra, è entrata mia moglie, mi ha distratto, cosa hai detto? Che fai benissimo andare fuori, perché qua ce n'è bravi, ma ce n'è anche con le orecchie lunghe di quelli che fanno io. Ho già speso una barca di soldi in visita, capito? Cioè non posso continuare a non sapere esattamente le cose come stanno, sto stufando. Ieri un dolore, un bruciore sotto proprio nella trachea allucinante, ho dovuto prendere un IFRA, sempre su disposizione del mio medico, telefonicamente, l'ho chiamato, ho detto sì, prendi un IFRA, non prendere altro. Poi vediamo, se ti passa ci vediamo lunedì, e così ho fatto, però oltre che io abbia fatto di tutto e di più, abbia terminato anche la cura, mi ha dato l'otorino, il problema persiste lo stesso, quindi di cosa stiamo parlando? E poi mi sento sempre rauco, con la voce non è più squillante come prima, non sarete anche accorti, non va bene, capito? Quindi anche l'aria, Massimi ha deciso così, ma tu lo passi, se come voi ti dico, si prende e si parte, non deve stare qua a romperci le scatole senza sapere niente. va bene, adesso ti conviene aspettare a domani, cosa ti dico? E poi decidi. Comunque ti aggiorno che gli orari medici, quelli che passano per le visite, non è più dalle 10 a mezzogiorno e dalle 5 alle 7. Ma non è più quello lì l'orario, io sono sempre rimasto indietro, io sempre dalle 10 a mezzogiorno che manco a casa. Poi la sera non mi frega niente, poi intanto devo andare su una parte, però almeno dalle 10 a mezzogiorno, infatti poi mi hanno già mandato l'azienda al controllo, ed è venuto alle 11.20 il medico fiscale. No, allora ti aggiorno. Allora, il medico fiscale, adesso sono cambiati gli orari. È dalle 9 alla 1 e dalle 4 alle 8. È dalle 9 alla 1, dalle 4 alle 8. Praticamente non puoi andare a lucro. Se uno di malattia non puoi uscire. Poi ci farà giorno a pigliare una boccata d'aria. Non ho capito. Io non sapevo niente, il mio medico non mi ha aggiornato. E quindi io sto facendo gli orari normali, dalle 10 a mezzogiorno, poi 3 petto la sera, ma non fa niente perché io la sera sono sempre a casa. Però c'ho quell'arco di tempo, mi alzo alle 8, vado a prendere un caffè, poi torno, prendo a Filippo, lo porto io. Alle 10 meno quarto sono sempre a casa, capito? E poi dopo mezzogiorno, a volte, non sempre, oggi sono uscito perché volevo andare allo spin. Se no non me ne frega niente di uscire da quell'ora. No, vabbè, io ti sto dicendo che gli orari sono quelli adesso, capito? E anche quando capita che vai a fare queste visite, fatti sempre rilasciare un certificato come tu vieni lì a visita. Capito? Perché se dovesse passare al momento che tu sei nella visita e lui passa a casa e non ti trova, devi portare la giustificazione, quindi tu domani devi fare la visita. Quando vai a fare la visita, domani tu ti fai fare una certificazione che vieni a visita. Tanto non le costa niente, un foglio, capito? Se in caso dovesse passare il medico, tu c'hai la giustificazione. Sì, sempre, anche l'ottorino me l'ha fatto l'altro giorno. Anche il medico mio non c'è problema. Ma mi dà un po' fastidio sta cosa, dalle 9 all'una, cioè... Devo anticipare parecchio per portare il cane, oppure dovrò portare mia moglie perché anche io l'ho portato il cane alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza Filippo ancora dormito, Marco si scende a portarlo. Filippo dalle 9 e mezza in poi è attivo, Marco allora Marco si muove. Marco con i cannoni ne ero alti dalla sua cuccia, capito? Verso 9 e mezza, 10 meno un quarto, allora inizia il suo movimento, ma adesso dalle 9 all'una, proprio a tribadura, no beh, ma si vede, certo che uno quando è malato rimane a casa, ma io grazie a Dio posso camminare, quindi non è che posso prendermi 10 minuti di aria fresca fuori, no? Anche senza uscire, senza prendere la macchina e andare in giro perché non sto toccando, ma qua sotto posso scendere, in quel caso invece mi crea un sacco di problemi anche per portare il cane, capito? Lo so, e purtroppo adesso hanno cambiato questi orari e quindi bisogna rispettarli. Lugano vorrà dire che hai bisogno e lo devi portare prima. Se quando passa al medico, dal medico di Lugano non ha tutti nulla, capito? Lo trovo una pelle a casa, non il cane. Vabbè, purtroppo è così. Ah, signori, io mi sono entrato giusto a farmi due passaggi, salutare, e vado a accompagnare le donne qua che sono già pronte là. Ciao Claudio, ciao Gianfranco, ciao Marco, chi fosse l'ascolto, io momentaneamente vi saluto. E alle prossime, là. Claudio, poi ti mando una foto di quella radio là. E via, là. Riprendi Gianfranco e buona serata. Sì, Massariano, ciao, buona serata. Alle prossime, sì Claudio, confermo, hanno cambiato tutto, non sono più medici del corso, sono medici proprio dell'Inps, dove siamo, sono ricordo che sono dell'Inps. Adesso non me lo ricordo. Comunque fatto sta che devi assolutamente essere a casa da noi, è anche più severo, perché devi, se esci di casa a prescindere dal motivo, devi avvisare prima, devi andare dal medico, devi chiamare e dire attenzione perché io sto uscendo per andare dal medico. fare per questo, per questo, questo esame, e poi le presenti anche la giustificazione che si è realmente andato al medico, perché loro a loro volta devono usare il coso, il medico fiscale, in modo che aggiorni tutto, perché tutto è informatizzato. Poi, ad esempio, noi adesso anche per uscire, già registriamo l'uscita sull'auto di servizio, ma anche per uscire solo perché devi fare una riparazione, poi devi ugualmente chiedere la giustificazione. Capito, quindi a ogni intervento c'è che la giustificazione, praticamente, quando riduci. Mentre quelli all'interno sono tutti registrati già da qualche mese. Quindi qualunque cosa tu fai, c'hai il database, devi compilare, a quell'ora ho fatto questo. Anch'io Gianfra lo faccio già da 2 anni questa cosa. Io ho il telefonino aziendale dove c'è un programma che si chiama esattamente, guarda te lo dico perché ce l'ho direttamente qua. Allora, si chiama Info dei POC, c'è scritto Kit ed è ND24, ok? Io con quello devo dire all'azienda qualsiasi tipo di spostamento, perché ho l'ND24 per gli spostamenti e per i permessi mi devono autorizzare per potermi spostare a fare determinate cose, e poi ho l'ND24 che timbra, capito? Io timbro direttamente dal telefonino nonostante abbia il cartellino, però siccome io sono sempre in movimento non ho la possibilità di aprire la curva qui e si abbassa il volume. ND24 timbratura, siccome io nonostante abbia il badge, ma a volte non ho la possibilità di fermarmi un impianto per timbrare perché sono in giro, allora timbro direttamente dal telefonino. Senza quello, quindi ND24 che è l'info dei per i permessi, appunto per darmi il permesso di spostamento per fare qualsiasi cosa e spostarmi da qualsiasi parte al di fuori anche del mio impianto. ND24 timbratura e poi ho rilievo punti GPS 2.0. Con quello io devo attivarlo ogni volta che mi sposto in macchina, nonostante abbia quello della macchina, ma devo tenere anche questo attivato per gli spostamenti personali. Loro mi sanno dove io sono fermo e cosa sto facendo, capito? Quindi non si può andare manco a pisciare oggi a fa. Sì. Ma a me ti vedo anche più comodo, perché almeno non ti do fare le spalle di nessuno, no? Perché siccome la maggior parte delle persone lavora seriamente, questi tizi come quello che c'è sul giornale oggi dovrebbero prendere, lanciare e buttare la ponte, perché sono imbecilli, non hanno fatto lavorare anche il lavoro, e mettono le guai agli altri. E così almeno qualcuno la finisce di prendersela con i pubblici dipendenti, che era ora. Certo, sembra che siano il male primario. Beh, l'unico sistema per avere un po' di rispetto, infatti stiamo bene che la bisogna controllare, verificare, eccetera, eccetera. Anche loro sono controllati, tra l'altro, cioè i controllori dei controllori dei controllori dei controllori. Lo dico con molta tranquillità perché l'altro giorno avevo proprio un discorso con un CC e gli ho detto quasi perché mi ha fermato, mi ha tenuto una 15 minuti, che poi stavamo parlando anche di altro, Ho detto quasi quasi mi deve fare anche il permesso per perché se lo fermo qua, che c'ho il satellitare nella macchina. Metto il satellitare nella macchina? Ah, sì, vedo lo stemma, guardi, la Subaru nuova nuova, guardi, lo stesso stemma. Poi abbiamo scoperto che le macchine nostre sono leasing plan, le macchine loro sono leasing plan, tutte con GPS, tutte. Quindi lei lo fa a me il permesso e io lo faccio a lei. No, beh, noi siamo autorizzati perché siamo fermi in posto di controllo, quindi è chiaro che sanno dove siamo. Lei è fermo nel posto di controllo, qualsiasi cosa succede, non c'è problema. Lei chiami e noi diamo la disponibilità di dare tutti i suoi dati, ora, momento in cui l'abbiamo fermata e tutto, non si preoccupi. Sì, ma non è quello delle macchine leasing, c'è anche quello loro, perché adesso c'hanno la cartografia digitale, e ogni mezzo vedi che si muove, no? Quindi stanno sempre quanto ti sei fermato, dove ti sei fermato, se c'è bisogno, se non c'è bisogno. Ad esempio i nuovi giocattoli che mi sono arrivati adesso hanno tutta quella funzione. Se tu disgraziatamente cadi a terra, immediatamente trasmettono la tua posizione e un allarme, perché vuol dire che sei caduto o comunque sei svenuto e insomma cose così di già, o sei in difficoltà. Quindi automaticamente hanno tutti da solo. Quindi figurati se stanno dove sei. Sì, ma infatti Gianfra, è così, te lo dico, non è che siamo i soli a essere controllati, anche le forze dell'ordine sono controllate da me, perché tutte le macchine delle forze dell'ordine sono tutte in leasing plan, Arval, capito? Sono tutte queste società di comodato d'uso, quindi perciò te lo sto dicendo, e hanno la stessa trick e track, va bene. Allora, dunque io nel mio lavoro sono molto schietto, non ho mai dato nessuna rottura di scatole, quindi sono tranquillissimo. Quando ho bisogno di spostarmi, di uscire fuori zona con la macchina, tutti i miei dirigenti sono al corrente di tutto ciò che faccio, quindi non mi frega niente. Molto bene. Marco? Sì, addirittura cosa vuoi far spostare? No, un'ora e mezza ho finito. Sta pensando? Anche 2 ore. Ah? Sta pensando, poverino, 2 ore, li devo lasciare. Aspetta un secondo. Vabbè, Marco. No, io sto aspettando che rientri Eugenio. Rientrava più o meno a quest'ora da Barumeni, infatti 920 ti sul canale 10, però ancora non l'ho agganciato. Lontano. Claudio, ma tu antenne libere ne hai? Qualche F? Cosa vuol dire Gianfranco, antenne libere ne hai? In che senso? L'antenna a cui attaccare qualcosa. Antenne libere che posso attaccare qualcosa? No, c'ho una monobanda VHF. Basta. Tutto il resto c'ho la 510. E pure le due direttive, UHF, sono attaccate ai gemellini, però quella UHF l'ho lasciata a polarizzazione orizzontale, quella VHF l'ho messa a polarizzazione verticale. Devo fare una prova, effettivamente ha c'è una differenza notevole, prima non riceve l'ordine, nel cesso riceve anche l'ordine. Capito? Va bene. No, io non c'ho altro che fare. Perché? No, perché sto cercando personale per fare delle cose. E non ce n'è, capito? Non devi io anche la parata. Non si ne accatta. Non va. Lo so. Vabbè, un po' di pazienza, te l'ho detto ieri, poi appena si passa tutto in DMR vedrai che i giochi sono fatti, chi è indietro indietro, chi è avanti avanti, io devi fare, vabbè, tutto lì, comunque, non ho altro, io sono organizzato così, ho le due radio basi che hanno le bande laterali, ci sono le direttive attaccate, ti ripeto, in 275 ho girato la protezione verticale da 9 metri. E poi c'ho il 790 che ci è attaccata la 510. Si è attaccata la 510, c'è il MiG 60 e basta. Poi c'è una monobanda UHF dove c'è attaccato un veicolare per insomma girare un po' così a destra e a sinistra. Non ho capito molto, perché c'è il telefono probabilmente vicino alla radio, al microfono. Io tra ogni tanto. Comunque, va bene. Volevo dare un apparato per fare il rispetto. Con la razza là. Però un pochino più grande. Forse non c'è antenne disponibili. Aspetta. Quindi queste prove non le hai fatte con Elio ieri? Sì, Elio non c'è mai, non paga, non c'è, non si possono fare, sono cose che richiedono attenzione, sono cose lunghe, insomma, vabbè, è così, meno male è quasi sempre automatico, no, però... Beh certo. Certo che sì, certo che sì, automatiche, oramai tutto automatico. Quando ti parlava anche, ti rispondono, però, sai, se riprendi. A un certo punto serve anche, ogni tanto si sente anche il ponte, il coso. Adesso sta arrivando quello in bara, un po' più forte del solito. E niente, c'è ancora personale interessato a fare qualche test. E così. Ma vabbè. Ma questi test devi fare in DMR o in UHF normale? No, essenzialmente in UHF. In UHF digitale, DMR. Per vedere un po' come fare i limiti, capito? A me va bene anche un gomino, è per dire, ma c'è una cosa un po' che ho vista, ecco. Io lì non ti posso aiutare, lo sai, dall'altra parte scimalino che manda sempre mia Valeria Spera. Eia, va bene. Io se lo direi ormai, va bene, a posto, tutto ok, sai come la canzone, tutto ok, non tocca se varò. Se non ero isolato, sarei ogni giorno passando il confine andando a comprare roba là, perché fuori c'è un altro pianeta, possono essere anche cari, però se c'è soldi per comprare c'hanno più. Ehi, ero abituato a mettere lontano il telefonino perché se non fa scariche. Adesso l'ho messo lontano, bene mela. Non mi comodo per sentirlo. Immagina che si ottiene anche la nocca attaccato alla testa. No, se no, sto sempre facendo aggiornamenti, ricevo molto su WhatsApp, quindi mentre scarica, eccetera, fa non va bene. Va bene. Beh, Marco Condor, noto ratta pignara, ma se ci farà gurubiato, dai magnato gurubiato, facci capire. Guardi quanto c'ha fame, non risponde neanche. E lui è così, cosa ci vuoi fare? Questo microfono l'aia io che sto fuori il gatto, ma se ne vai via gli M1 669 euro, ma ammazzati. Cioè di che cosa stai parlando? Di MF? No, questo microfono dell'aia io l'M1 microfono da tavolo 669 euro, e cosa l'hanno fatto loro? Sì, mi ho sentito parlare l'altro giorno in HF, appunto se lo stavano commentando, perché attento, però non è un microfono normale, molto semplice, è un microfono che puoi cambiare praticamente tutte le, mi pare già tre capsule, tre piantoni di capsula, un microfono particolare, però 600 euro. Esce una radio usata, esce, ma stai scherzando? Non penso che ne vendano molti di quelli, come l'MD200, che si è presentato in una maniera molto, molto balorda, nel senso che non ha avuto grande successo. L'MD100 gli ha fatto le scarpe, capito? Provato, testato anch'io, ma tanti altri, la modulazione non è molto bella, non si capisce il perché. Io infatti l'avevo comprato diciamo da poco, e fortunatamente l'avevo fatto fuori, ma avevo tenuto l'MD100 che va molto molto meglio. Vabbè, comunque, e a che serve? Che se lo compri, io di certo non le spendo 600 euro per un microfono. Tempo e troppo. Tu lo sai quanto costa un apparato navale? Costa intorno anche superiore ai 12.000 euro. Però la differenza è che va montato su una cosa che costa milioni di euro, anzi costa anche qualche miliardo di euro, perché è una nave, e quindi tutto in proporzione. A volte ne hanno 2, 3, 4 gli apparati HF. E poi sono apparati fatti in certo modo perché devono fare qualche servizio, non è solo la voce. Quindi se ti fai le debite proporzioni, dici che sono veramente mati per stare a ISO. Sì, beh, sono d'accordissimo con te. Però se te lo vuoi io te lo faccio avere, una bella stazione navale, molto molto interessante. Raggeloso, con microcornetta, tutto bellissima, tenuta anche molto bene, di una grossa imbarcazione che hanno demolito a Trinità la Luna, capito? C'è il comandante, non lo vuole guardare, andiamo da poco, la manna che anche un frigorifero che bella, però da avere, da vedere, insomma, certo non da usare, in terra a fianco alla scrivania, cos'è il vatto? No. Ci sono quelle, sono anche belle, solo che adesso Gianfra non sono più come quelle di prima, di una volta, no? Adesso lavorano molto sul digitale anche loro, queste radio di bordo. Sì, beh, anch'io c'avevo avuto un paio di volte. Infatti avevo detto sempre al mio fornitore di fiducia, guarda che se ti arriva qualche cosa di quel tipo, obbligatimi. Infatti due settimane fa l'avevo chiamato, ho detto, ma ho visto che non mi hai chiamato e c'è un apparato in vendita. E lui mi ha detto, sì, già, ma a te non ti interessa perché questo parte troppo in alto, ho fatto dagli 8 in su, e quindi non c'ha voglia di dire. E poi non ti puoi caricare mica a 30 kg di radio, infatti sì, l'ho visto che era remotizzato, e anche se è una bellissima radio, una marca prestigiosissima, però no, fa, capito, dove mi la mossa, la metto, suona più bagno, ma la sponda, no, non esiste, c'era 400 watt, tra l'altro è un approccio eccellente, niente da dire, anche abbastanza moderno. No, quello che dici tu dalla Georgia di Nano 3, l'ho usato Garibaldi, questa l'ho usato di mille. No, adesso sono... è raro, soprattutto dagli italiani è raro sentire il contatto in fonia, anche sugli 8. È tutto telex, tante... il pastor, capito? Ci sono il pastor 3 o 4, in alta velocità. Sono tutto così, oramai è tutto per iscritto, come dice, verbo volante, quindi comunicazioni dette così, vai lì, vai là, non è voluto nessuno, tutto scritto, quindi c'hanno il telex, esce il messaggio, devi andare al porto adesso di Augusta, via, vai lì, l'ordine è quello. Dopo dire l'ho ricevuto perché poi c'è anche la risposta, capito? Ah, questa è una ragione, sta gente che mi hanno dato un frigorifero di quelli vecchi, non come quelli adesso, l'ultima generazione. Però è bello nuovo, è bello tutto grigio, con la microcornetta, c'è cioè l'analizzatore di spettro, fatto in varia molto visione, e poi dice, no, questo c'è un analizzatore di spettro, c'è il grafico di quello, di quell'altro, ma fatto dalla porta da qualche altra parte. E l'hanno messa in magazzino lì da uno che lavora al porto. Un bagagione, capito? No, quella è la versione da 200 watt, c'è scritto, fatti 200. Lì infatti stanno demolendo tutta la cabina di comando, non demolendo la barca, perché è un bel bestione, più di 18 metri la barca. Stanno demolendo tutta la cabina di comando, stanno facendo tutta la cabina di comando nuova, e chiaramente mettono l'apparecchiatura nuova di ultima generazione, capito? Sì, perché sennò non è che la può usare, capito? Dipende dalle miglia a cui deve andare, gli apparati devono essere omologati, tutto così, se no non fare, vabbè, il DSC, l'HF, tutte quelle belle cose, per avere il DSC in VHS, di cose particolari, se non c'hai non succede. Poi quando la piazza la radio non è mica è attaccare due file così, no? Tanto non ci vuole il progetto, poi ci vuole il tecnico che ti rilascia il certificato e poi in ultima analisi deve venire ispettorato per vedere che l'apparato sia conforme. Dopodiché puoi andare in navigazione, quindi è una serie di adempimenti non da poco. Questa è una cosa seria, già fra questa barca che lavora a Santa Teresa di Gallura, stanno facendo lì al cantiere nautico lì, però c'è appunto, una volta che è tutto smantellato, arrivano i tecnici da fuori per montare tutto l'impianto elettrico e tutta la parte, tutta l'attrezzatura di bordo con lo scandaglio, con tutta la, stai scherzando, sono milanesi, mi sono da Milano, li conosco tutti. Una barca che lavora a Santa Teresa e fa Santa Teresa a Bonifacio, qui non è una barchetta, è una gran turismo, capito, una bellissima barca, è ferma lì già da qualche mese al porto di Trinità. Va bene, che ore sono? 7.25, ti volevo lasciare in compagnia di Marco, ma è parito, attento Marco. No, tanto anche io sto andando a cena, mangio qualcosa, un po' così. Ah, sono già le 7.25, passate. No, ci aggiorniamo dopo, allora, dopo cena l'abbiamo fatto ieri. Ho fatto due chiacchiere fino a 8:30, così. Va bene Gianfra, dai, buona cena, io mi preparo, vado a portare il cane. Nel frattempo già entra Marco. A dopo Gianfra, grazie alle due chiacchiere. Sì. sì, sì, perfetto. Miffy, forse sta chiamando il genio. Sì, sì, perfetto, perfetto. Perfetto, e va benissimo, per me non c'è nessun ritardo, niente di particolare, capito? Ho messo quello in italiano e quello internazionale, dai. Sì. No, volevo... è interessante sapere cosa ne pensi dei discorsi, se è più tranquillo, se... Assolutamente no, assolutamente. Sì, oggi ti ho registrato, adesso ti faccio venire avanti. Assolutamente no, tutto un altro pianeta, tutta un'altra musica, capito? Aspetta Gianfra, vediamo Eugenio. Attento Eugenio, Claudio Sparviero chiama da Sassari, dove sei? Rettilineo Sirico, molto bene. Gianfra, lo senti? Sì, basso basso, ma l'ho sentito. L'hai sentito Gianfranco? No, non mi può sentire, sono abbastanza senza. Non pretendo ad arrivare in 27 lì. Comunque salutamolo. Io vado a cena, sai, ci sentiamo dopo. Scappa Gianfranco, ok, d'accordo, vai, ci aggiorniamo dopo allora. E oggi io devo andare a portare il cane, ok? Ci sentiamo dopo, stai rientrando, tutto a posto? Perfetto, oggi non ti preoccupare che arrivi perfettamente, senza problemi. Se sei lì nel rettilineo di Sirico, vai benissimo alla grande, non c'è problema, ok? Io vado a portare il cane, nel frattempo così tu ti avvicini. Se dovesse entrare Marco, già ti risponde lui che già ti sente, va bene? Ok, dai, ci aggiorniamo dopo allora. Marco Condor, guarda che c'è Eugenio nella piana di Sirico, la mazza che te ne vai a te a Rubiatto, e sta mangiando Eugenio, dai, ci aggiorniamo dopo, avvicinati. Marco, finita di mangiare, c'è Eugenio. Eugenio. Stavo chiamando, ma non stava rispondendo nessuno. Ehi Marco, è a mangiare, io sono andato a portare il cane, dove sei arrivato? Vabbè, adesso sono qua, adesso, tu? Pregaglietta. E vabbè, le prove le abbiamo fatte, quando hai chiamato lì a Sirico ti ho sentito, quindi non ce n'è problema, tutto bene è andato? Ho voglia, già sono stato al tempo. Qua non era brutto il tempo, diciamo, dai, un po' nuvoloso, un po' il sole, comunque non ha piovuto, quindi in di massima già non siamo andati male neanche noi. Comunque, già è dietro l'angolo, sì, anche quando hai chiamato poco fa ti ho sentito io, non c'è problema, l'impianto è a posto, l'amico tuo si è convinto. Devo andare a questo lettere che si appare perché si ha contratto la pelle mille perché lui ha c'era dietro a te, non muoveva neanche l'ago dello smitter e tu di Santiago 7, capito? Manco l'ago dello smitter mi muoveva, nonostante la mia buona posizione per quella zona dove vedi tu, manco l'ago dello smitter, cioè non arrivava per niente, quindi è tutto da rifare lì, a prescindere che abbia un buon baracchino nuovo, ma l'antenna, ci vuole l'antenna nel camper, messa lì nella posizione che ce l'hai tu è favolosa. E ho capito, cosa vuoi con Inchimi, un paro di utile, un PDC 800, così quando lui passa sotto gli alberi l'aspetta, non va bene l'antenna così in alto, nel campo si mette al fianco della gabbina. E allora può metterla lì, visto che è predisposta, può metterla a PDC 800 Minox, capito, quella corta che mi pare che sia un metro, boh, una cosa del genere, 1,10 m. Va molto bene quella lì, la PDC 800, quella corta, va molto bene, ma non chissà cagata che mi hai fatto vedere tu, scusando il termine, c'è tua moglie, non te la saluto, però non va bene quella, oggi è un'antenna fatta e tagata, non serve a nulla. Sì, certo, va bene, non c'è problema. importante è che abbia un'antenna efficace come quella che c'hai tu, capito? Ma non quella che mi hai fatto vedere che era lì nella cantina. Non va bene quella, è un'antenna che non serve a niente. Ci vuole un'antenna simile alla tua, che non è tanto grande, oppure una PLC 800, però quella corta, non quella lunga. Allora va bene. Ecco, quindi la conosce già come tipo di antenna. Beh, per le macchine è stata sempre la PLC 800, la PLC 1000, che erano le prime uscite, poi ne sono uscite altre, però sia la PLC 800 che la PLC 1000 sono risultate sempre molto, molto valide, capito? Perciò io le consiglio di prendere quell'antenna lì, poi la vuole montare sopra la cosa, la gabina, va bene? Se non la mette dove l'hai messa tu, che è ottima lì, capito? Vabbè. Però messa lì sopra, che tu cavo devi avere uno, barri via la gabina o Eugenio, come fa a avere tutto quel cavo? C'è un sacco di dispersione, tu c'hai il cavo corto anche vicino, capito? Ho capito Eugenio, però se tu lasci quell'antenna, l'impianto è già fatto con quel cavo. Invece, aspetta. C'è mia moglie a voce al telefono, una cosa pazzesca. Ho chiuso la porta. Ho detto, quell'antenna lì è montata dalla casa, praticamente cosa succede? Che il cavo è già, l'impianto è già fatto, ok? Quindi arriva sicuramente in un punto X, io non lo so dove arriva, se arriva in cabina, se arriva lì nel vano della roulotte, quindi da qualche parte arriverà questo cavo, no? Se però cambia antenna, e il cavo cosa fa? Non è uguale a quella lì, deve cambiare tutto il mozzo e quindi c'è da rifare tutto. Beh, sicuramente allora è così. Ho capito, sì, vabbè, quello là le fai perdere l'antenna, penso che sì, che ce l'ha della CBC uguale a quella che c'hai tua, o simile a quella, se non è della Midland è della CTE, ma sono molto simili, che vanno molto bene, diversamente si prende la PDC 800 e allora lì viene un bel impianto, ma quello che ce l'ha sul tetto, e lì ce l'ha cambiare tutto il motto, ce l'ha cambiare tutto il basamento, il connettore dell'attacco dell'antenna che c'ha già non va bene per quella che deve mettere, quindi bisogna adattare nuovamente tutto e fare tutto nuovo. E allora anche che prende la PDC 800, dire di prenderla uguale a quella lì che va molto bene, si tara uguale, si mette lì nel parafango e viene un bel lavoro, anche perché il cavo è corto, si fa misura, capito? Viene un bel lavoro, l'altro poi vedrà lui se lo fa fare da chi le piace, perché lì c'è un lavoro molto particolare, secondo dove è attaccato il connettore dell'antenna che è già uscito dalla casa, c'è da smontare mezzo gambe per baciambare il connettore. Ah, e allora le lasci tutto così e quando le tira quello nuovo ci mette l'antenna uguale lì nella posizione che ce l'hai tu e il tuo amico, capito? E vedrai che problemi non ha, sicuramente problemi non ne avrai oggi. Dove sei arrivato? Uscito da Sassari? Io manco accorto come sono, io sono sempre Santiago Nove, come sono manco accorto, va bene. Quindi avete trovato tempo bello, tutto a posto là, appunto tra tentare i voci. Ho detto è andato tutto bene, comunque per fine settimana. A TV, permesso. Vabbè, di buona dieta. Ciao Luca, buonasera, lo senti Eugenio in macchina nel col camper, sì. No, ciao Cla, non lo sento. No, siccome in questi giorni c'è un bel vento, ho notato che me ne hanno messo un tracciato il capo, l'antenna. Si è staccato al palo, ecco. Non so come sto andando. Bene, 9:25 radio 5, tuo segnale, tua radio. Cappala. Ciao Luigi. Tu mi ascolti a me. Un po' impegnato, dai. Qua a casa, tutto a posto, oddio. Così, dai, così. Ci piaga un po'. Gappa, Luigi, va bene. Sì, ecco il campo, sta rientrando. Mi sento benissimo oggi, non c'è problema. Come sta tua madre, tu? Era un piano, se si dà una mossa, se collabora già va bene, dai. Devi collaborare, fai furto. Se vuole andare avanti e se vuole migliorare, no, è un casino. In effetti è così, dimmi. Dimmi, oggi. No, è di quasi 5 da Sirico. Qua la mia postazione è di quasi 5 da Sirico. Poi, chiaramente, una volta che si gira la Florina, scorrete una lì, sei oltre il 9, non c'è problemi. Santiago 9, sì, qua. Luca, lo senti dal rettilineo di Lioni? Sì, sì, non è 9, ma lo sento. Beh, Drumito dice, c'era Eugenio da Sirico, volevo vedere se lo sentivi anche tu, e invece dice Drumito. Guarda che c'è Luca del Monte e Eugenio che è già all'ingresso di Porto Rossi, vai. Sì, stiamo ascoltando, sì, mi sono appigiolato, la verità. Mi è venuto un biocco dopo mangiato. Dove ti è comparso lui? A Sirico ti è comparso come segnale? Sì, dal rettilineo di Sirico ha chiamato la Santiago 5 Radio 5. Adesso è Santiago 9, all'ingresso del Porto Torres, se vedi te. Bene, dai, bene. Ciao Benio, ho sentito che c'era anche bel tempo. Ciao anche Luca, dai, insomma, buona come giornata, dai. Sì, ma continua a chiamarlo Benito, da gente che si chiama Eugenio, non Benito, rincoglionito. Che ne so, mi entra sempre in testa Benito, non so perché, sono nomi simili. Ciao Eugenio, mi ascolti? non lo so, mi ricordo più Benito che non Eugenio come nome, dai. Bene, bene, va bene così, dai. Io mi ero messo in camera, mi stavo guardando la TV, mi ero assopito infatti. Ti avevo lasciato con Gianfranco, Claudio, poi no, non so più niente. Sono rientrato adesso, dai. A Luca ha salutato, vai, a Luca del Monte. Certo, ho detto ciao Luca. Ciao, Marco, beh, è tanto. Sì. Avete lo stesso segnale con Luca, lo sai Claudio? Siete tutte e due 9 più 45. Ma a Luca ce l'hai a 200 metri, a me è a 2 km. Ma tu c'hai qualche watt di troppo sicuramente. No, io ho 20 watt modulati 30, come sempre. Ehi, ehi, vabbè, almeno un Santiago in più già c'è. Con 20-30 modulati, dai. Bene, detto ciò, mi ritiro in buon ordine, dai. Adesso inizia il telegiornale. E mi attacco alla TV, dai. Ci sentiamo domani. Ciao, prendi la goma che posso amare. Adesso sul lotto, sei entrato alle 7, hai mangiato, mentre i bocchi, ti sei dormito, sul lotto te ne sei andati. Va bene, ciao. Buonanotte, dormi sempre, continua a dormire, che ti si ammosciano le ali. Eugenio, a te il cambio. Ciao Eugenio, fatti sentire domani mattina che tanto sono a casa, ok? Ciao Eugenio, ciao. Avanti, Lucaria. Ehi, a casa Eugenio se mi stai ascoltando, io non ti sento più. Alla prossima. A Samarco, tu entri, a Marte potrei fare, boh. Ehi, Eugenio mi è sparito con Santiago 4, Arrivato a casa sua, Santiago 4, lo sentivo appena. Capito? Sicuramente a Claudio arrivo la più forte, e oggi sono... Sai cos'è lui? Sono lento oggi. Alla fine qualcuna non ha voluto uscire, come al solito. E me ne sono rimasto a casa anch'io, dai. Ma senti cosa, scusa me, tu televisore con un telefonino. Ma questo è tra il comando del telefonino. Cosa la fa? Succede alla migliore famiglia, non ti preoccupare. Sì, Santiago 7 a me mi arriva all'ingresso di casa sua, Marco. Vabbè, non abbiamo la stessa vista ottica. Tanto è vero che anche te arriva molto più basso la casa, mi arriva più di 9. Vabbè, ma comunque l'importante è che ti arrivi. È un ottimo segnale col camper, adesso finalmente si sente da tutte le parti. Beh, diciamo che comunque quando stava ondulando ancora, dice che stava arrivando davanti a casa, era oscillante da 6 a 7. Poi però nel primo passaggio era tipo 4, forse era proprio parcheggiato. No, allora l'hai sentito quando svincola lui nel viottolo praticamente, capito? Quando svincola nel viottolo un po' si abbassa, però poi riprende, io lo sento sempre, anche quando è sotto casa sua lo sento sempre proprio prima di entrare in garage, dai. Bene, bene così, dai. Oh, yeah. sapere che ci dovevano andare a trovare con Gianfranco un VHF. Dati digitali. IMR in UHF, no? In UHF. E fra un po' io penso che prima di fine anno ne sentite poche di cose, sono passate in digitale anche voi e SWPL. Si sta già, molti sono già passati l'IMR, capito, dove c'è poco traffico, anche così in diretta si usa, giusto per quando ci sono le coppie che fanno collegamenti in tandem e così, allora si tiene la banda VHF normale, la U normale, per dire, guarda che sono qui, adesso ho capito, però vedi proprio questi oramai... La maggior parte anche a Sassari, attenzione, anche a Sassari sono tutti DMR, quindi fra un po' ci sarà ancora meno traffico da ascoltare per il SWPL. Sì, infatti non ne vale più la pena di prendere scanner normali, non conviene più, dai. Quelli digitali c'è uno solo ma costa mille e più euro. Non ti inabbino che mi compro quella cosa lì, per sentire due bagianate pure. No. Fine delle SWPL vuol dire, al limite rimarrò solo in HF a ascoltare. Sì, ma infatti no. Noi guarda, stavamo già guardando, i colleghi, io stavo già al computer, io stavo già organizzando, perché poi non ci bisogna organizzare. Appunto per passare DMR definitivamente non se ne parla più, quindi così ci sarà anche meno problemi per quanto riguarda un po' i disturbi e tutte le cose, ma io, la maggior parte degli allenatori, quelli che insomma conosci anche tu, conosco anche io, sono già tutti in DMR, siamo rimasti in pochi, stiamo già provando, sperimentando, facendo eccetera eccetera, però ci manca poco al cambio di qualità, dai. Ci manca poco. Io penso entro l'estate, prima dell'estate faccio il passaggio diretto appunto con l'aiuto di Gianfranco, sicuramente perché lui è molto esperto, però faccio il passaggio diretto, quindi addio a tutte le cose, SWPL, divertitevi in PMR. Eia, è in HF, vabbè che per sentire due bagianate in chiaro cosa spendo soldi per sentirle in digitale, ma per carità. Mi avevo il direttore digitale e subito hai messo a fuoco. Marco dice che non vale più la pena perché adesso passiamo tutti in DMR, quindi dice ma per sentire due bagianate in normale le sento anche due bagianate in digitale, ma non è così Gianfra, spiegaglielo tu. Sì, no, degli scanner, ho detto ormai gli scanner analogici non conviene più comprarne assolutamente. Quello digitale costa 1000 più euro, per carità, perché lui è il primo adesso che è uscito, non conviene più. Poi intanto, giustamente come hai detto tu, importantistici saranno anche in digitale, come ci sono adesso in chiaro. Capito, quelli che mandano registrazioni, quelli che traduano, quindi quelli che fanno casino ci saranno sempre anche in digitale. Solo che non li ascolteremo. Pazienza. Beh, per quel sistema che mai detto, perché lo mandano su internet. E va bene. Ma non lo so. Deve stare sempre questo smartphone appresso, allora. Diventerà un ricevitore anche quello. Eia, però è diverso, dai. Chi è che disturba Gianfra? Chi è che disturba? Ci disturbiamo tra gli animatori? Va bene, ci disturberemo tra gli animatori. Ascolti, chi disturba? Non lo so, non ci voglio mettere in lingua. Io penso che quello dell'altro giorno sia ben organizzato, perché il 90% l'ho sgamato. Ho lasciato girare la direttiva in V. Da una parte che non dico, c'era un segnalone allucinante, capito? Poi mentre la giravo scendeva, lì c'era un radiomatore, quindi senza voler insinuare niente per nessuno, me ne guarderei bene, però a volte facciamo delle stronzate anche noi, quindi Gianfra, cosa facciamo? Ci facciamo la guerra tra uno e l'altro? Non penso. Mi assento un attimo, ho ricevuto una telefonata, devo uscire urgentemente, a dopo. Claudio si è assentato perché ha ricevuto una telefonata. Così è, presa d'atti. In Germania per esempio prelevano, mettono due cavetti in un punto giusto, lo chiamano discriminator, forse è quello lì, come prendere prendono l'uscita segnale non dalle cuffie ma dalla frequenza, qualcosa del genere mi deve essere, e come fargli un'uscita d'atti. Via, vabbè, ancora non sono tutti in digitale, quando lo saranno magari qualcosa la studierò, dai, però stare sempre attaccato a un computer, quello mi secca. Stare attaccato a un computer, vabbè, scelte personali. Oh, 5-1 ha vinto l'Inter contro il Cagliari, cazzo. Ciao Gianfra, buonasera anche a te. Vabbè, io a computer sto, adesso un po' di meno, però già me li faccio le mie ore. Cerco. Studio. Beh, diciamo che il computer mi fa da professore, ecco. Io è effettivo. Vabbè. Casino, ma sono una stanchezza, guarda. Fatto venerdì, sabato, sono uscito. Riposo poco e niente. Quasi stasera sono diventato fretta a casa. Fatto il mio dovere. Aspetto ancora almeno 10:15 e come vado andata da domani, se Dio vuole, se ci fa andare Gesù Cristo. Io sono ateo, o quasi dubbioso, diciamo, è un po' sì, scusate, sono distratto perché sto facendo roba qua, dai, sentiamo domani, mi sto perdendo anche il telegiornale, dai. Sentiamo domani, ciao Luca, ciao Claudio, se c'è ancora, e Gianfranco, dai. Oh, ho dormito abbastanza oggi. Guarda a te, sai che non c'è. Dai, anch'io mi accetto che mi sposto qua, così. Io ho mangiato il cagnolino, e poi mi metto qua di nuovo, mi vado un po' in TV, di Max, non so, qualcosa. E poi aspettiamo l'ora che devo aspettare, e poi spiego il tutto e andiamo. Dai, alla prossima, buonanotte a tutti. Ciao, io chiudo. Ciao a tutti. Ciao. Marco. Non ho chiesto. 8:28. No, sono venuto a uscire urgentemente a recuperare mia figlia, perché lei serviva la macchina, quindi sono andato a portargliela, capito? Recuperarlo, ecco, mi ha riportato qua, si è preso la macchina, capito? C'era a piedi. Va bene. E quindi niente, il discorso è quello lì. Vabbè, lui ci vedrà, gli fa. Abbiamo ancora tanto tempo per pensarci, no? Comunque, noi ce l'avevamo già fatto, no? Con la poca esperienza mi sono fatto con l'IMR, mo si vedrà. Vabbè, ma infatti quello che dico sempre io, ognuno fa radio come vuole, per carità, no? Non è che anche il modo che io di fare radio, io faccio radio, è sempre un modo di fare radio, che sei qui, che sei là, che sei un po' da tutte le parti, quello è il mio modo da sempre, e così l'ho sempre fatta, quindi non è che posso cambiare o mettere la pressa agli altri, ognuno fa quello che vuole, giustamente. Io in 2-2 è già un periodo, un bel po' di tempo che non è che ci sto transitando, sono sempre in ascolto, se devo salutare qualcuno. diverso rispetto agli altri. Oggi pure che a me non mi interessi, ma è chiaro che per poterti mettere all'avanguardia e stare al passo lo faccio anche io, non è quello il problema. Anche da subito, ma ancora voglio attendere un po', se no posso già mettere in atto tutto ciò che insomma, che sai tu, non ce n'è problema. Come infatti ho detto a Marco, non so se era ascolto, io passerò al BMR completo come tutto deve essere con l'aiuto di Gianfranco, perché è chiaro che io non sono all'altezza di poter né programmare né capire determinate cose. Col tuo aiuto pian pianino riuscirò a mettermi in carreggiata come hanno fatto gli altri. C'è quello più preparato, c'è quello che ha più esperienza, è chiaro, è parte avvantaggiata, uno con l'esperienza deve capire, sapere e soprattutto sapersi muovere in quel campo lì, capito? Quindi l'ho detto con l'aiuto di Gianfranco, quindi dal momento in cui ti dico ok, anche da domani, ok, da domani, perfetto, allora preparati perché dovrai programmare tutto tu e mettermi in condizione di poter ricevere e trasmettere. Poi certo lì sì, Gianfranco. È così. Certo che sì. Ci ho notato anch'io che l'ascolto è molto, molto più vasto nella regione Puglia rispetto ad altre regioni. Evidentemente lì hanno deciso un po' di aprirsi rispetto ad altre regioni. E così è. No, beh, comunque. Si vedrà, io comunque sono attivo lì sulla parte digitale, quello che abbiamo già fatto per il momento, poi si vedrà già fra, vediamo comunque di attivarci più in fretta possibile, ok, poi ti ripeto, di anche io ieri, quando volete fare due chiacchiere in VHF, ci spostiamo, ci mettiamo a 400, 450, insomma una frequenza. Io sto un po' così per far andare anche le radio, perché io proprio cioè i due gemellini che se ne stanno ridendo lì, fermi da una parte, tutti e due con l'SM20, li accendo pochissimo e quando li accendo sono sempre nascosto, o in più. Per fare altro tipo di attività mi avevo preso il 790, anche quello è sempre spento, per carità, sono dibuttati là, non ti dico, vabbè. Gianfranco, ti devo lasciare che è pronta la cena, andate, sono 9:20 già, è entrata mia moglie qua a chiamarmi. Grazie delle due chiacchiere, grazie dell'info, grazie sempre di tutto, gentilissimo, ci aggiorniamo domani, dai, ok? Buon fine serata, buonanotte, buon tutto. Io spengo direttamente tutto qua. Spegniamo già qualche radio. E basta. Ok, a domani Gianfra. Grazie di tutto. Ciao. Ciao Gianfra, ciao. Sì, vabbè, io ero sempre lì a 3:50 con il gruppo RS, quindi possiamo fare scambiare due chiacchiere anche lì a 3:50, 145, 3:50. Entrano anche spesso molti francesi. Va bene, dai.